Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Ciao Radio 24, io sono Francesco, vi guardo tutte le mattine e mi piace molto il vostro programma e vi volevo salutare. Ciao, tanti saluti e tanti bacioni. Ciao, buona giornata, tanti bacioni. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Proprio come un albero che vive in mezzo agli alberi, mi sento quando giro per il mondo. Cerco di far sì che il vento non mi butti giù e di affondare le mie radici nel profondo. Allora, Mauro, io avrei questo progetto per il prossimo fine settimana. Sì, quale Deborah? Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a Due di Denari. Vorrei mettere a dimora un impianto arboreo da legno a ciclo medio e lungo. Che cosa ne pensi? Allora, vorresti piantare un albero, come dice appunto anche Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti qui in sottofondo. Ma perché attenzione, perché no, perché come racconta Gianni Trovati oggi, devo dire in modo divertente, sul Sole 24 Ore, avremo un progetto per piantare tutta una serie di alberi. Sono stati stanziati anche 30 milioni proprio un anno fa, nell'ottobre 2019. Ah, quindi non è una cosa del recovery fund, del grande piano green di Ursula von der Leyen. È una cosa anche antecedente a tutto ciò. È una cosa che volevamo fare già nel 2019. Volevamo appunto come paese mettere a dimora impianti arborei da legno a ciclo medio e lungo, insomma piantare degli alberi. Ok, perché non lo facciamo? Scusami, abbiamo un sacco di spazio nel nostro paese. Calma, perché tra la decisione e la semina passa sempre il suo tempo. Un decreto attuativo? Il decreto attuativo, ad esempio, che Gianni Trovati ha letto diligentemente e verrebbe da dire religiosamente, insomma, fa capire che non è una cosa così semplice. Perché? Perché è servito tutto un confronto tecnico tra il governo e gli enti locali. E il decreto attuativo, come scrive Gianni, è un saggio delle incognite italiane nella materia dell'attuazione. Adesso, se noi lo proiettiamo, questo albero, queste fronde dell'albero che non c'è, sul utilizzo del recovery fund, ecco, c'è da essere un pochino preoccupati, ma speriamo invece di no. Comunque, io rimando alla lettura del Sole 24 Ore di oggi per le parti, diciamo, più divertenti. Vi dico solo che per arrivare a piantare sti alberi nei comuni, che poi è l'obiettivo che si vorrebbe raggiungere, qui bisognerà fare allora un progetto esecutivo con relazione tecnica, quadro economico di ripartizione costi, planimetrie redatte su base di cartografia georeferenziata in scala nominale, fiscalista, computo metrico, stima di costi di manutenzione per 7 anni, allegare descrizione delle aree destinate a ospitare piantagioni arboree, poi allegare anche ovviamente una descrizione in termini fisici, biologici, ecologici, ma anche podologici e paesistici. Dovremmo anche fare la trasmissione di stamattina. Una documentata descrizione del collegamento tra le fitocenesi di progetto. Da qui il famoso detto: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Deriva, diciamo, da tutto il casino italiano che abbiamo messo in piedi per cercare di rendere più verde la nostra nazione. Allora, abbiamo cominciato con gli alberi, perché comunque oggi vogliamo parlarvi di seminare bene, ad esempio seminare bene per i vostri investimenti. Avete acquistato il volume di Deborah Rosciani e Mauro Meazza in edicola sabato? Giovedì, guardo Paolo Corleoni che fa finta di nulla dietro la mascherina, non perché so se ha acquistato il volume. Sì, certo. Adesso vediamo, caro mio, perché se non l'avete trovato, perché qualche ascoltatore ci ha scritto a due di denari @radio24.it, ha detto ma non riesco a trovarlo. Allora, vi do qualche dritta. Potete andare sul sito primaedicola.it e lì prenotare il volume, oppure ci segnalate qual è l'edicola dove non riuscite, la città, diciamo, dove non riuscite a trovare assolutamente il volume, sì. E noi ci faremo carico di segnalare alla nostra distribuzione di seppellire gli edicolanti dei nostri libri, che saranno contentissimi. Gli edicolanti li ringraziamo per la pazienza, ovviamente. Ecco perché servono gli alberi in Italia, perché dobbiamo produrre un sacco dei nostri libri e la carta, quindi è importante. Detto, fatte tutte queste premesse, io fra un po' mi occuperò di mercati finanziari con la nostra, con il nostro meteo borsa del lunedì, e poi nella seconda parte della trasmissione invece dobbiamo approfondire un tema che abbiamo già lanciato la settimana scorsa. Attenzione a spacchettare la famiglia se volete farla risiedere in due abitazioni diverse ai fini fiscali. Sì, non si può più fare, e lo dice la Cassazione. C'è un'ordinanza di Cassazione che, diciamo così, stringe notevolmente le maglie, perché secondo questa decisione, appunto, non è possibile che la famiglia, la coppia, diciamo così, si separi in due entità immobiliari, due unità immobiliari diverse in comuni diversi. Questo naturalmente metterebbe un pochino a rischio chi si deve trasferire, però, ad esempio, per motivi di lavoro, chiaramente in modo temporaneo, però magari per molti mesi in un anno. E lo affronteremo questo problema, perché poi chi avesse operato così, in buona fede, oppure magari perché voleva cercare di risparmiare qualcosina. Perché lo stai precisando? Certo, l'avrà fatto in buona fede. Certamente, no, ma infatti dico, e se eventualmente qualcuno, lungi da me il pensare male, ecco. Però dicevo, attenzione, perché i comuni adesso possono addirittura andare a chiedere l'arretrato che non è stato versato. Per quanti anni? Per almeno 4 anni. Comunque ce lo spiegherà con dovizia di particolari il nostro amico Luigi Lovecchio, che così ci dirà che cosa ci può derivare capitare da questa decisione della Corte di Cassazione. Tutto ciò premesso, 800 24 0024, il numero verde come le foglie degli alberi, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms e WhatsApp per mandarci messaggi. Verde quindi? Anche come la situazione di borsa stamattina. Ah, ma che bello, allora come il logo di Radio 24. Meteo Borsa. Meteo Borsa. Una buona giornata da Alessandro Aspesi, Country Head Italia di Columbia Threadneedle Investment, tra i protagonisti peraltro del libro Investire è facile anche nei momenti difficili. Buongiorno e bentrovato. Grazie Alessandro, bentrovato. Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro. Allora, tra i protagonisti, perché nel nostro libro lo diciamo a chi, così sì, solletichiamo un po' la curiosità di chi vorrà leggere. Sì, perché ci sono delle testimonianze, delle interviste che abbiamo raccolto tra operatori, come dire, esperti mondiali, come diciamo sempre, esatto, qui, per chiedere loro, vabbè, ma al di là di tutto questo pasticcio di pandemia e mica pandemia, ma quali potranno essere le tendenze dei prossimi anni? I criteri ESG sono una roba seria o è tutta una manfrina che stiamo mettendo in piedi, ma poi in realtà c'è poco di concreto? Insomma, ci spiegate bene come possiamo pianificare, eccetera. Intanto, a prescindere dalle condizioni mondiali dei mercati, noi ci limitiamo un po' ad osservare quella che potrebbe essere la tendenza questa settimana. Allora, abbiamo intanto la ripresa delle trimestrali americane e iniziano a comunicare i dati i big della finanza, toccherà a Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, e tra loro ci sarà pure Johnson & Johnson. Ci sono molti dati macroeconomici importanti dagli Stati Uniti, però il tutto a partire da domani, perché oggi, tanto per cominciare, gli Stati Uniti saranno chiusi per il Columbus Day. L'Europa parte bene, invece, Aspesi. Allora, qua siamo preoccupati per la ripresa, abbastanza preoccupante per l'appunto, dei contagi da Covid. L'economia viaggia ai ritmi che sappiamo, non è che brilli da nessuna parte, e la borsa che ha ripreso invece a correre. Settimana scorsa l'Europa ha archiviato la sua ottava, come si dice, con rialzi di circa il 2%. Da che cosa nasce tutto questo ottimismo in questa fase? Ma è una situazione molto effervescente se guardiamo tutto ciò che sta accadendo a lato dei mercati finanziari, partendo da quello che abbiamo visto questa mattina, ad esempio, sul mercato azionario cinese. Che è successo? Il presidente Xi Jinping sostanzialmente ha dato due segnali forti. Uno è quello di sfruttare al meglio il progresso tecnologico in Cina, e nella fattispecie mercoledì parlerà proprio da Shenzhen, che è una città nella Cina meridionale, dove vuole creare un'unità di supporto tecnologico per tutta la Cina, quindi una forte incremento nella digitalizzazione del mercato cinese. Dall'altra parte è diventato anche molto più propenso ad attrarre investitori esteri sul mercato cinese, e l'ultima normativa prevede proprio che soprattutto le società finanziarie che operano in valute differenti da quella cinese non debbano più lasciare dei margini di garanzia. Quindi questo favorisce sempre di più anche un'espansione delle società finanziarie, quindi più legate al mercato borsistico, e ovviamente anche la capacità di attrarre degli investimenti esteri sul mercato cinese. Se ci mettiamo poi zero casi di Covid in Cina, secondo quanto dichiarano le autorità, ecco qua che, come dire, sul piatto della bilancia ci sono solo che condizioni favorevoli per investire in quest'area in questo momento, Aspesi. Esattamente, quindi parlando di meteo borsa, lì è proprio sereno, cielo azzurro. Se guardiamo dall'altra parte dell'Atlantico, anche qui Trump, che si era dichiarato addirittura negativo o non propenso a discutere con i democratici il piano fiscale prima delle elezioni, anche in questo caso pare che si voglia avvicinare al famoso impegno che i democratici hanno quantificato su 2.200 miliardi di dollari di stimoli fiscali. Quindi anche questo va a cancellare uno dei dubbi che aveva in effetti guidato il mercato un paio di settimane fa. E poi il terzo aspetto che riguarda noi direttamente, stiamo entrando nel caldo delle trattative per quanto riguarda l'utilizzo del recovery plan, e quindi qua mi riferisco al governo italiano e a Conte in particolare, che avrà una settimana molto calda di discussione con le Camere per quanto riguarda il piano di utilizzo delle risorse finanziarie, che prevede un forte sostegno ambientale per quanto riguarda l'economia italiana, e poi in seconda battuta anche il possibile scostamento di bilancio nella nota di aggiornamento del documento di programmazione finanziaria, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 22 miliardi di euro. Però diciamo che tutte queste sono notizie che i mercati finanziari tendono a scontare positivamente come futura crescita dei mercati azionari, ed è per questo che vediamo dei segnali ancora positivi oggi, non una borsa particolarmente effervescente nell'ambito europeo, stiamo parlando di performance leggermente sopra lo si zero, consolidano i rialzi di settimana scorsa, sì, diciamo, esatto, che queste sono sedute un po' di assestamento. Esatto, però è sempre una conferma di quello che abbiamo visto di buono settimana scorsa, e quindi la liquidità sul mercato c'è e dovrà permanere. Sono incuriosito da un oggetto di cui parliamo meno in queste settimane, lo spread, perché effettivamente sembra raffreddarsi, cioè 123 cala, insomma. Punti adesso. 123 è buono, no Deborah? Mi pare di sì, quantomeno siamo un po' più leggeri per quello che riguarda appunto la spesa per interessi sul debito pubblico, siamo considerati un po' più affidabili per quello che riguarda, come dire, la considerazione degli investitori internazionali. E queste sono, come dire, indicazioni buone, però è, come dire, una riduzione di spread un pochino pilotata, drogata, se vogliamo, Mauro. E non lo so, io tu guardi me, ma io chiamo subito in causa Alessandro Aspesi. Mi aiuti allora a rispondere alla mia collega? Sì, è una situazione di calma pilotata. In effetti, sotto il cappello della Banca Centrale Europea, il debito governativo italiano rimane protetto. Oltretutto non dimentichiamoci che su scadenze importanti, classifichiamo importanti le scadenze dai 5 ai 20 anni, che sono molto richieste anche da parte degli investitori istituzionali, il nostro debito è ancora estremamente attraente, perché offre quelli che vengono chiamati tassi reali positivi, cioè tassi al netto dell'inflazione, e quindi siamo in assoluto il paese più appetibile nell'economia europea, che ha anche un certo prodotto interno lordo da portare al tavolo. Ovviamente ci possono essere delle economie che offrono magari dei rendimenti leggermente più alti, però il rischio paese effettivamente è maggiore. E l'Italia oggi si trova effettivamente come uno dei paesi appartenenti alla top 10 che offre questo tipo di rendimento, e di questi tempi, con tassi addirittura negativi, stiamo parlando di investimenti super attraenti. Caro Mauro, direi che possiamo congedare tranquillamente Alessandro Aspesi, perché tanto tornerà prossimamente con noi. Per chi lo volesse continuare a seguire, può leggere Investire Facile anche nei momenti difficili, perché ci sono i suoi commenti. Per il resto, sui casi specifici di borsa, io rimando l'appuntamento con i nostri ascoltatori a fra qualche minuto per l'appuntamento delle 11.30. E allora adesso facciamo così, facciamo un giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Tutto bene. Veramente va tutto male, mi dispiace per lei. Per me? Già. E che colpa c'è, scusi? Beh, vabbè, la colpa non sarà mica nostra, no? Ma abbia pazienza, maresciallo. Io ho un consulente fiscale. Dagli col consulente. Questo è un duo storico, i Tartassati, Aldo Fabrizi e Totò, in questa così rappresentazione ancora molto molto attuale della situazione italiana, tanto più che la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, devi sapere cara Deborah, ha condotto uno studio e ha rilevato che la pressione fiscale, anche quella calcolata proprio in media sul prodotto interno lordo, quella, no, non quella reale, perché se andiamo a guardare proprio quanto ci resta in tasca, sì, dopo aver pagato le tasse, intendo noi che le paghiamo, coloro che le pagano, allora probabilmente superiamo facilmente anche più del 50%, ma se guardiamo proprio quella al prodotto interno lordo, quella che si guarda nelle classifiche internazionali, bisogna, secondo il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, alzare l'asticella dal 42,4% al 48% e oltre, il che ci pone nella poco invidiabile condizione di essere il paese più tartassato d'Europa. Tra l'altro c'erano stati un po' di anni di calo, anche se modesto, della pressione fiscale, sempre, ripeto, quella calcolata in media, quella calcolata sul prodotto interno lordo, quindi stiamo parlando davvero di un dato macro che più macro non si può, e però nel 2019 c'è stato invece c'è stata una inversione di tendenza, incremento di 0,7 punti, quindi il livello è tornato indietro di 4 anni, poi se si calcola, spiegano i commercialisti, sommerso, economia illegale, pari al, stimano loro, 12% del prodotto interno lordo, 215 miliardi, ecco che arriviamo a questo 48,2%. Insomma, praticamente ogni euro guadagnato, ogni euro incassato, 48 centesimi se ne vanno per il fisco, non è pochissimo. E noi gli diciamo ciao ciao. Allora, facciamo una cosa, per trovarci meno impreparati rispetto a tutto quello che dal punto di vista economico-fiscale capita anche a noi, e lo dico in questo momento in particolar modo alle signore all'ascolto, andate, se avete tempo in questa giornata, sul sito della Banca d'Italia, al link Economia per Tutti, troverete proprio in home page la possibilità, tutte le, come dire, le indicazioni per poter partecipare a questo webinar che si tiene questa sera dalle 17 alle 18.30, se non ho dei ricordi vaghi, ma li ho, mi sembra abbastanza precisi, potete partecipare appunto proprio a questo evento che si intitola Le donne contano. È una riflessione importante, perché sapete che le donne tendono intanto un po' a sminuirsi quando si chiede loro se ritengono di avere delle competenze finanziarie, non hanno sempre una chiara coscienza dei propri bisogni, tendono a delegare le scelte economico-finanziarie un po' troppo spesso al compagno, al marito o al papà, e quindi se vogliamo trovarci un po' più pronte rispetto a tutte le sfide che abbiamo attorno a noi, dobbiamo corazzarci meglio. Questa sera c'è questa occasione interessante, ci saranno, interverranno Magda Bianco di Banca d'Italia, Anna Maria Lusardi che è il direttore del Comitato per l'Educazione Finanziaria Italiana, Mariolina Coppola che è la presidente di Soroptimist Italia, perché questa iniziativa arriva proprio dalla collaborazione fra Banca d'Italia e l'associazione Soroptimist International. Ci saranno tante altre donne che diranno la loro, ci spiegheranno come fare, ci sarà anche Nadia Linciano di Consob che domani sarà anche qui con noi per la nuova puntata dell'Alfabeto del Risparmio, tutto questo per arrivare a concludere che l'evento di stasera è moderato da un signore che è Mauro Meazza, grazie. E quindi è imperdibile, e io mi collegherò alle ore 17, sarò lì a riprendere appunti, perché se anche un po' ne so, come dire, gli esami non finiscono mai. Allora, io ringrazio naturalmente di questa segnalazione, e invece vado a un'altra segnalazione che ci è arrivata, ed è Enel Energia vuole intervenire, ha voluto precisare in relazione al procedimento che è stato avviato dall'autorità garante della concorrenza del mercato, ne abbiamo riferito venerdì, l'autorità ha avviato una serie di verifiche nei confronti di diversi operatori, più di una decina, per presunte pratiche commerciali scorrette corrette in materia di trasparenza delle offerte alla clientela. Enel Energia precisa che l'azienda applica nelle proprie proposte commerciali gli oneri di commercializzazione che sono definiti dall'autorità di settore, cioè da ARERA, quindi rimanda ai relativi provvedimenti pubblicati e aggiornati periodicamente dalla stessa ARERA. C'è un'altra notizia fiscale, te la sei persa? Lo sai quanti sono i cittadini che scelgono di inviare da soli la dichiarazione dei redditi, cioè che fanno la precompilata, non la precomplicata, che è sempre meno precomplicata, ma sempre più precompilata? Guarda, ho visto qualche cosa sui giornali di questo fine settimana. 3,9 milioni sono in totale le dichiarazioni inviate dai contribuenti in totale autonomia con pochi clic direttamente dal proprio PC. Beh, insomma, in questi mesi di lockdown tra marzo, aprile e maggio ne avranno approfittato magari per fare qualche lezione fiscale per farsi la dichiarazione dei redditi da soli. Al top delle regioni si colloca la Lombardia con quasi 1 milione di invii fai da te, seguono il Lazio, il Veneto e il Piemonte. Quindi a 6 anni dal lancio della precompilata la percentuale dei modelli inviati tramite la piattaforma della Agenzia delle Entrate è cresciuta del 178%. Sì, è una crescita notevole e ti devo dire che è una crescita che è accompagnata anche dal fatto che i dati sono sempre più ricchi, più completi naturalmente, quindi sono aumentati anche gli invii senza alcuna modifica, quindi gente che riceve la precompilata e la restituisce così come l'ha ricevuta. E poi naturalmente c'è anche la possibilità di vedere già inseriti tutta una serie di sconti fiscali, di bonus. A questo proposito c'è un dillo a due di denari. Davvero? Sì, sì, senti un po'. Dillo a due di denari. Io ho una casa con, diciamo, contestata con mia moglie, dove dobbiamo cambiare gli infissi, i doppi infissi, e vogliamo cambiare gli infissi interni perché hanno un coefficiente termico sfavorevole. Vorremmo mettere quindi degli infissi un po' più prestanti. Tende al lato sud per tende parasole e eventualmente pago la fattura normalmente con bonifico parlante tutto senza andare in banca o cedere il mio credito. Come funziona? Ne ho diritto? Grazie. Allora, non rispondiamo nel dettaglio all'ascoltatore, lo rimandiamo però ha diverse opportunità di approfondimento dove sicuramente potrà trovare la risposta. Allora, innanzitutto venerdì siamo tornati a fare il punto sul 110%, trovate la nostra puntata sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cercate nella sezione di programmi 2 di denari, da lì trovate la puntata di venerdì. Luca De Stefani ci ha aiutato a fare il punto. Poi sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, trovate tutta una serie di approfondimenti. Stamattina presentavamo anche 110 risposte sul 110%. In attesa di trasformare anche la trasmissione che precede questa in Uno Nessuno e 110 Milan, così almeno ci allarghiamo e possiamo rispondere a voi tutti, vi segnaliamo anche, e lo segnaliamo al nostro ascoltatore, sempre il sito dell'Esperto Risponde, www.espertorisponde.ilsole24ore.com. Lì potete trovare tutte le indicazioni con anche un motore di ricerca che vi consente di già imputare la cosa che state cercando. Cara Debora, sono le 11 già e 31, perché qui il tempo vola. Hai promesso un aggiornamento sui mercati. Sto friggendo. Allora, le borse. Data breach. Due di denari. Buongiorno Debora, buongiorno Mauro e buona settimana. Ammazza, però le foglie dell'albero mo sono gialle, no verdi. Mi raccomando. Debora, che cos'è questo termine webinar? Siamo in Italia, parliamo italiano, traduci. stamattina non ne becchiamo una. Come fai sbagli? È così. Allora, webinar. Intanto c'è il foliage. Sì. Siamo in autunno, non sono verdi, sono gialle le foglie, anche un po' rosse, un po' marroni. Vabbè, però dipende anche un po' dalla pianta. Ma adesso non voglio fare il botanico perché non ci capisco niente. Io sono un ragazzo cresciuto in periferia qui di una città, sì. E quindi cosa vuoi che capisca? Per il me sono tutte piante. Come lo traduco? Un seminario? Seminario digitale? Seminario via web, no, web non va bene, allora seminario via internet, digitale. Che però internet non va bene, seminario via quella roba lì che ci collega tutti dentro nel computer, che poi tu guardi e c'è anche nello YouTube questa cosa qui. Ma andiamo al premio del giorno, che vince il signor Davide, che vedo si sta cimentando da molti giorni a questa parte con una raffica di insulti a tutti. Questa mattina è toccato a me perché dice che sogno, solo nei miei sogni vedo 8 settimane consecutive di rialzi di borsa. Allora Davide, non tralascio tutto quello che ha scritto dopo perché non le fa onore. Io ho detto che questa ottava di borsa si apre positivamente, sì, oppure esatto. Sì. Allora, nel gergo finanziario si utilizza questo concetto riferendosi ai rendimenti considerati di un titolo. Se lei vuole sapere, avendo investito in un titolo, quanto ha guadagnato nel giro di una settimana e lo vuole sapere il venerdì sera, non prende come prezzo di partenza quello che si ha il lunedì mattina, ma quello che si è registrato il venerdì sera, per fare un calcolo puntuale. È una, come dire, una prassi nell'ambito finanziario che non ho creato io, me la sono ritrovata, che da 20 anni lavorando al sole uso come riferimento. E per questo si dice ottava, allora. Ottava perché sono 8 giorni da considerare. È ci come sono... nella musica, un'ottava. Oh, esatto. È la stessa cosa, anche se le note sono 7. Quindi Davide, visto che sa tutto lei, io non so niente, questo è quanto mi ritrovo a spiegare. Non ho parlato di 8 settimane consecutive di rialzi sui mercati, perché le abbiamo davvero viste con il binocolo, ma questa, la settimana scorsa, l'ottava di borsa precedente, l'ottava di borsa scorsa che ci siamo lasciati alle spalle, si è chiusa con rialzi in media per le borse europee di 2 punti percentuali. Basta, adesso vado in sciopero. No, stai qui, perché adesso ti devo spiegare invece una cosa molto interessante che ha detto la Cassazione. Interessante, ma anche un pochino preoccupante. Ho convocato un esperto, un amico, una voce amica per Due di Denari e per Radio 24, nonché esperto, espertissimo del Sole 24 Ore, Luigi Lovecchio. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, Luigi. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Allora, vorrei anzi che tu ci spiegassi questa ordinanza, se leggo bene, della Cassazione numero 20.130 del 2020, in cui in 2 paginette si dice testualmente che l'unità immobiliare per dove risiede la famiglia deve essere una e soltanto una. Non è possibile che, insomma, 2 coniugi, una coppia, risiedano l'uno in un comune e l'altro o altra in un altro comune. Non possono spacchettare la famiglia. Ma no, è scritto anche così nell'ordinanza, scusami. No, perché mi vengono anche dei riferimenti di quelli lì un po' alti, insomma, il fisco non divida ciò che, vabbè, niente. Luigi, spiegaci un attimo, ma veramente ha detto così? Quindi tutti coloro che, ad esempio, hanno la residenza, il marito da una parte e la moglie dall'altra, un componente della coppia in un comune e l'altro componente in un altro, e quindi niente, sono fuori legge a questo punto, e rischiano anche, se hanno fatto così, se non hanno pagato IMU, di vedersi chiedere l'IMU arretrata. Sì, allora il rischio esiste, anche se, insomma, a me sembra che questa ordinanza della Cassazione sia un tantino eccessiva, per usare così un eufemismo. Riepilogo sinteticamente il problema. Quando vigeva l'ICI, la Cassazione era già arrivata alla conclusione, oramai abbastanza consolidata, per cui l'abitazione principale può essere solo una. Non ci possono essere 2 abitazioni principali, anche in presenza di coniugi che dimorano in luoghi diversi per ragioni più disparate, come appunto il motivo di lavoro, eccetera, eccetera, perché la norma dell'ICI prevedeva che l'abitazione fosse una sola e in quella risiedesse e dimorasse il nucleo familiare. Per cui, siccome il nucleo familiare sono marito e moglie, allora devono stare insieme. Già questo, in vigenza dell'ICI, era una certa forzatura. Dopodiché c'è stata l'IMU, ecco da qui l'importanza di questa ordinanza, perché è tra le prime che affronta il tema dell'IMU. E eravamo arrivati alla conclusione, insomma la maggior parte di noi era arrivata alla conclusione che nell'IMU la cosa fosse diversa, perché nell'IMU la formulazione di legge era diversa e prevedeva che se ci sono due unità immobiliari nello stesso comune, uno in proprietà del marito, l'altro in proprietà della moglie, e marito e moglie risiedessero e dimorassero nelle due unità immobiliari distinte nello stesso comune, la norma dell'IMU diceva una sola può essere l'abitazione principale. Da questa formulazione il Ministero delle Finanze nella circolare numero 3 del 2012 ha dedotto questa conclusione: siccome la norma si preoccupa di stabilire cosa accade quando ci sono due unità immobiliari nello stesso comune, questo significa che se le due unità immobiliari sono in comuni diversi e ciò è giustificato da esigenze lavorative dei coniugi, l'esenzione da IMU si può raddoppiare, quindi ognuno ha la sua esenzione. Se uno ha l'abitazione a Milano e l'altra ce l'ha a Genova, però quello che sta a Genova è lì per ragioni di lavoro, tutte e due le abitazioni sono esenti. Questa era la situazione interpretativa con l'IMU che è entrata in vigore nel 2012. Adesso invece la Corte di Cassazione, con l'ordinanza che avete voi richiamato del 2020, ha un po' scompaginato le carte, diciamo così, sparigliato le carte, perché ha affermato che anche nell'IMU il criterio deve essere lo stesso. Quindi significa che anche nell'IMU, se ci sono marito e moglie che vivono in due immobili diversi, in due comuni diversi, ecco, questo è il punto focale della sentenza, addirittura nessuno dei due ha diritto all'esenzione, perché manca la unicità del nucleo familiare, quindi della residenza e della dimora dell'intero nucleo familiare in un solo fabbricato. Credo che sia un orientamento rigoroso, assolutamente a dir poco rigoroso, se non assolutamente non condivisibile. Insomma, mi permetto di dissentire formalmente. Una cosa è dire che tu ne devi scegliere una, questa è la logica. Allora afferma che per evitare manovre elusive scegli una unità abitativa che decidi che è esente, ma affermare addirittura che siccome il nucleo si è spacchettato, come diceva Debora prima, quindi i due coniugi vanno a vivere in fabbricati separati, allora l'esenzione non c'è, ecco qui ne parlavamo anche tempo fa con voi, insomma, mi sembra addirittura essere più integralisti di Papa Francesco, cioè significa andare proprio molto in là, ecco, rispetto ad un ordinamento civile. Debora. No, allora guarda, fai pure il tuo annuncio delle 11:45, ci sono un paio di messaggi molto divertenti, se vogliamo. Vabbè, uno ne posso già iniziare a leggere. Adesso cadiamo dalle nuvole, scrive l'ascoltatore. C'è sempre stato questo modus operandi, cioè ci sono sempre stati quelli che fanno per esempio le separazioni fittizie per pagare meno tasse universitarie, per risparmiare in tanti ambiti, ma insomma adesso magari per avere anche degli assegni, ecco. E adesso invece non si può più, ecco. Bisogna stare sotto lo stesso tetto. L'altro divertente ve lo leggo dopo. Traffico. Ma no, siete dappertutto, avete il dono dell'ubiquità come Padre Pio. Due di denari. Per la serie come la fai la sbagli, il termine è inglese ed è foliage. Debora, perdona loro che non sanno ciò che dicono. Oggi è un esame dietro l'altro. Attenzione alle note del pentagramma. Sì, no, giustamente Cinzia mi dice, beh, in realtà sono 12. Certo, se contiamo anche appunto i semitoni, dobbiamo anche contare contare 12 note. Non vorrei distrarmi però dalla questione dell'IMU, perché è un tasto per restare in questioni musicali, in metafore musicali dolenti. Luigi Lovecchio, esperto del Sole 24 Ore e voce autorevole e amica qui di Due di Denari, ci sta spiegando gli effetti di questa sentenza. Ci sono già due domande. Mi possono chiedere gli arretrati? È la prima domanda, e oimè la risposta pare che sia affermativa, ma adesso ce la conferma Luigi Lovecchio. La seconda è: ma se c'è una convivenza, cioè le persone convivono, questo tipo di esenzione, non esenzione, insomma, opera, non opera, l'ordinanza cambia qualcosa? Allora, per quanto riguarda il pregresso, sì, ovviamente, perché la Cassazione ha dato una interpretazione di una norma, e quindi dando un'interpretazione di una norma deve ritenersi che la norma si interpreta così fin dall'inizio. La cosa che posso auspicare è che nel recupero del pregresso i comuni non irroghino le sanzioni, considerato che i contribuenti si sono peraltro attenuti ad una circolare del Ministero delle Finanze, lo ricordo, la circolare numero 3 del 2012. Per quanto riguarda la convivenza, la questione rimane invece con le regole ordinarie, cioè la convivenza non ha alcun formale riconoscimento ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU. Che cosa significa questo? Significa semplicemente che se io convivo con una mia compagna o un mio compagno in un immobile che è di mia proprietà, ovviamente questo immobile che è di mia proprietà, in cui io risiedo e dimoro, sarà esente. Se il mio compagno vive per conto suo in un altro immobile di sua proprietà, e quell'altro immobile di sua proprietà in cui egli ha residenza e dimora sarà esente da IMU, e quindi ci sarà un raddoppio delle esenzioni, quella l'esenzione in cui vivo io e l'esenzione dell'immobile in cui vivo io e l'esenzione dell'immobile in cui vive e risiede il mio compagno o la mia compagna. Quindi in quel caso, diciamo, non cambia niente, si applicano le regole ordinarie. Ma posso sapere come avverrà questo famoso recupero del pregresso, Luigi? Allora, i termini sono 5 anni, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Questa è il termine di decadenza, quindi potranno essere recuperati i 5 anni precedenti, e a questo punto, se il comune si attiene rigorosamente a quello che dice la Cassazione, ripeto, io spero che il buon senso degli amici dei comuni inducano ad un'altra direzione, dovrebbe addirittura contestare l'esenzione a tutti i due i coniugi, quindi sia il coniuge che, diciamo, vive magari con i figli nell'immobile che in origine costituiva la dimora familiare, sia il coniuge non separato evidentemente che vive in un altro immobile, in un altro comune, per ragioni lavorative. Come ho detto prima, io mi auguro che il buon senso prevalga. Il buon senso significa contestami l'esenzione per un immobile, ma l'altra lasciamela stare. No, ma sempre in ogni caso nella modalità. Prima deve esserci quindi tutta questa verifica da parte dell'amministrazione comunale, del sindaco, dopodiché partiranno le note di accertamento. Con che strumento? Sì, allora arriva un avviso di accertamento. Chi è competente a fare queste cose è l'ufficio tributi del comune, è il responsabile dell'ufficio tributi del comune, il quale fa le verifiche, magari può mandare anche dei questionari per chiedere informazioni, ma se non ritiene non manda nemmeno dei questionari e spedisce per raccomandata degli avvisi di accertamento. Questi avvisi di accertamento saranno riferiti alle ultime 5 annualità, e spero, ripeto, che siano avvisi di accertamento senza sanzioni, insomma si vede come va. E poi dopodiché ci si potrà però andare a discutere, perché appunto la Cassazione è intervenuta su una decisione della Commissione Tributaria Regionale in un successivo grado, e forse si potrà anche verificare un ulteriore percorso così di giudizio probabilmente. Però mi viene in mente un'altra cosa. Allora, innanzitutto un chiarimento, Luigi: il primo anno recuperabile, quello più lontano, è il 2016, conto correttamente? Allora, dunque, 2016, dichiarazione presentata nel 2000, che avrebbe dovuto essere presentata nel 2016 per il 2015, quindi 17, 18, 19, 20, no, 21, quindi devi contare l'anno in cui è presentato la dichiarazione e fare il 31 dicembre del quinto anno successivo. Quindi la dichiarazione presentata nel 2016 per il 2015 si può controllare entro il 17, 18, 19, 20, 21. Quindi è in realtà 2015 per il 2014. Quello è l'ultimo anno accertabile, perché la dichiarazione presentata nel 2015 poi si può accertare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, che è il 2020. Quindi a fine 2020 si può ancora accertare l'anno di imposta 2014. Ecco, mi veniva però in mente una cosa di prospettiva, adesso siamo all'ultimo minuto davvero, ma con questo smart working, che probabilmente anche sarà ulteriormente incentivato, potrebbe darsi che effettivamente qualcuno, qualche nucleo familiare, decida per una suddivisione. Tu stai con i ragazzi qui, io vado fuori, eccetera. Questo però sarebbe un'esigenza lavorativa vera, ma se capisco bene la Cassazione qui non lascia scampo. Sì, è tranciante, è assolutamente tranciante. Ovviamente stiamo parlando di coniugi che abbiano anche preso la residenza anagrafica separata, cioè non deve trattarsi di una temporanea separazione, quella dovrebbe essere totalmente irrilevante, ma una divisione duratura per effetto della quale i due coniugi assumono residenza anagrafica distinta e dimora abituale distinta. Ecco, in presenza di queste situazioni la Cassazione sembra non dare alcun tipo di chance, che io mi auguro che ci sia un ripensamento. Felicissima che i coniugi debbano risiedere nella stessa casa, sono arci stufa di pagare l'IMU e vedere il sorrisino delle conoscenti che candidamente mi confessano che hanno la residenza al mare per non pagarvi le tasse, fin da quelle all'acquisto come prima casa. Questo è quanto ci racconta Marisa. E vabbè, allora insomma, e noi l'abbiamo vendicata stamattina. Questa Cassazione chiude anche un po' questi comportamenti, giusto Luigi? 10 secondi. Sì, no, semplicemente una cosa è contrastare l'elusione, una cosa è che con queste sentenze tu contrasti anche delle prassi che sono assolutamente legittime e giustificate. Perfetto, meglio di così non si poteva dire. Grazie a Luigi Lovecchio. Vado a preparare l'alfabeto del risparmio intanto che tu stasera stai con tutte le tue amiche. Sì, effettivamente sono in dolcissima compagnia dalle 17 alle 18.30, economia per tutti /bancaditalia.it. Buona giornata a domani, grazie a Marco Lombardo, a Paolo Corleoni, a domani. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.